Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Quella d'estate violenta mi ha fatto capire molte cose. Allora cominciamo dall'inizio. Perché non dalla fine? Sa, taglia concept è una gran provocatrice. Non spara che energia, eh? Ci sono cose molto più importanti che provocare me. E poi questa abitudine di parlare di sé in terza persona sta diventando insostenibile. Dunque, cosa legge lei? Non ho bisogno di leggere, vivo di vibrazioni, spesso di natura extrasensoriale. Abbandonando per un istante l'extrasensoriale, che cosa intende lei per vibrazioni? Come si fa a spiegare con la volgarità della parola la poesia della vibrazione? E non lo so, ci provi? Io sono un artista, non ho bisogno di spiegare un cazzo. Bene, allora scrivo vive di vibrazioni, ma non sa che cosa sono. Comincia a non piacermi questa intervista. Percepisco da parte sua una conflittualità. La conflittualità come vibrazione? La conflittualità come rottura di coglioni. Parliamo dei maltrattamenti che ho subito dal fidanzato di mia madre. No, io voglio sapere che cos'è una vibrazione. Il mio radar per intercettare il mondo. Un radar, vale a dire? Rompi i coglioni. Senta, siamo partiti male. Taglia Concept ci tiene all'intervista con il suo giornale. Ha tanti lettori. Ma lei è prevenuto. Perché non la fa parlare del suo fidanzato con il quale fa l'amore 11 volte al giorno? È che un artista concettuale mica da poco. Rielabora palloni da basket con i coriandoli. Un'idea sensazionale. Senta, Talia Comset parla di cose di cui ignora il significato. Io di lei finora solo fuffa, impubblicabile. Se lei crede che io mi lascio abbindolare da cose tipo sono un artista, non ho bisogno di spiegare, è fuori strada. Il nostro giornale ha uno zoccolo duro di pubblico colto che non vuole essere preso in giro. Io lavoro per lo zoccolo. Beh, questa è la proverbiale intervista di Jack Gambardella nella Grande Bellezza. Intervista quella che poi sarebbe Marina Abramovic, l'artista concettuale, che a sua volta è fidanzata con un altro artista concettuale. Indecifrabilità che prende a capocciate le rovine romane come esempio di body art. Beh, è un giornalista illuminato, un giornalista che conosce il potere, galleggia nel ventre grasso del potere, si sa muovere, ormai sembra che ha visto tutto, si è bruciato con tutto, non ha più bisogno nemmeno di rappresentare se stesso, però comunque fa il giornalista. Ha alle sue spalle, a parte l'unico libro che ha scritto, che fece epoca qualche decennio fa, ha alle spalle il fatto che comunque sia maneggia l'attualità. Beh, io questa mattina volevo capire e scarnificare l'origine, questa sorta di risentimento generalizzato che più volte ho sottolineato, facendomene anche giusto e lecito bersaglio, che oggi sui social c'è contro chi esercita il mestiere di giornalista. Siamo tutti prezzolati, siamo tutti venduti, siamo schiavi dei poteri forti, delle multinazionali, abbiamo tutti un padrone che ci comanda, siamo dei cagnolini scodinzolanti. Beh, alle spalle di questo risentimento, può avere anche dei margini leciti, non voglio negarlo, c'è probabilmente una narrazione rispetto allo stereotipo del giornalista che passa attraverso la commedia italiana, il film italiano, che probabilmente dà anche degli elementi concreti per esprimere questo giudizio collettivo. Beh, questa mattina assieme al grande Giuseppe Sansonna, di questo vorrei tirare fuori le scaturigini profonde. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Ci fermiamo soltanto un istante e tra un po' cominciamo a raccontare i giornalisti italiani raccontati dal cinema italiano. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Un altro tipo di intervista. Mamma mia, ormai siamo un popolo di intervistati. Ma non li senti come dico sempre a chi? Lascia stare. Ma poi sii sincero, ma chi se lo compra un libro che si intitola Visione e Revisione, la galassia di Jack Gambardella? Ma è un titolo serio. E in questo paese, purtroppo, per farsi prendere sul serio, bisogna prendersi sul serio, Jack. Roma, ma che gli raccontiamo? Io ho scritto un solo romanzo 40 anni fa che non si trova neppure nelle librerie. Ma che cazzo dici? Che era un capolavoro assoluto all'apparato umano. Che vinse pure il coso là, che vinse il... Oh, Bancarella, il Bancarella. L'Inter Bancarella, no? Ma sei tanto caro, eh? Ma lasciamo perdere. No, che lasciamo perdere. Sarebbe troppo presunto. No, non possiamo lasciar perdere. No, no, perché così mi metti in difficoltà. Perché io avrei firmato, avrei preso pure un anticipo. Allora, Giuseppe Sansonna, noi partiamo dall'esempio ultimo, l'esempio più recente, probabilmente quello che è maggiormente impresso nella memoria dell'umanità che ci ascolta. Ma in fondo Gambardella non ha nulla di spregevole in quanto giornalista. Potrebbe essere accusato da una lettura piuttosto frequente nei social che frequenta i piani alti del potere, questo sì. Sì, alla meravigliosa mollezza partenopea da Leone al sole di Dudu La Capria, del ferito a morte, no? Si rapporta a questa Roma che è un Olimpo di terrazze sospeso, un po' metastorica, è un po' al di sopra della storia, è vero, non c'è un aggancio fortissimo e violento all'attualità, anche perché forse un giornalista non può permettersi una vita così da nababbo, così oddio, estrema. Oddio, ho in mente qualche esempio, sì. Un po' più del passato, non tanto l'attualità, però... Non è visibile questo aspetto della sua vita se non alle persone che frequentano le sue stesse terrazze. Sì, al suo ristretto circolo, che appunto comprende questo mondo di imprenditori, di gente che vive di un'ideologia ormai con cui ha un rapporto controverso, che lui scarnificherà in un dialogo violentissimo. Avanzi della politica passata che si mixano e si confondono con l'attuale, zoccolume di tutte le generazioni, preti, c'è di tutto in mezzo. Raffaella Carrà rimixata da Sinclair, quindi in questo trenino continuo sfavillante al neon obnubilante che si vive in questa terrazza eterna, questi trenini che non portano mai da nessuna parte. Però la storia, ecco, l'attualità vera e propria, io una volta anche parlando un po' con chi ha fatto il film, veniva fuori un'interpretazione che fossero come dei morti, dei fantasmi in realtà, perché fossero leggermente sospesi rispetto a una realtà innervata sulla storia, sull'attualità. Tutta un'evocazione, una visione suggestiva, con una sfumatura onirica molto forte. Beh, la famosa scena con la sosa di Madre Teresa di Calcutta, sì. La mistica, la santa, sul balcone, Scala Santa, sì. La Scala Santa, quel volo di fenicotteri, è totalmente onirico. Questo però è il limite della rappresentazione del giornalista di Sorrentino, che a sua volta però probabilmente ha delle ampie e visibilissime citazioni. Dovrei cambiare ambiente, dovrei cambiare tante cose. La tua casa è un vero rifugio, sai, i tuoi figli, tua moglie, i tuoi libri, i tuoi amici straordinari. Io sto perdendo i miei giorni, non combinerò più niente. Una volta avevo delle ambizioni, ma forse sto perdendo tutto, dimenticando tutto. Non credere che la salvezza sia chiudersi in casa, non fare come me, Marcello. Anche Marcello, il Mastroianni della Dolce Vita, è un giornalista e Sansonna ha lungamente riflettuto su questo personaggio, su questa figura, che forse è la figura ispiratrice da cui prende passo, dalla fine di Marcello della Dolce Vita, inizia il Jack Gambardella. Su questo ha scritto anche un saggio nel suo libro, Giuseppe Sansonna, Hollywood sul Tevere, storia scellerata, uscito recentemente per Minimum Fax, che è la storia di tutti questi personaggi che costellano il cinema italiano, che non sempre sono considerati personaggi di primo piano, sono una sorta di limacciosa feccia in cui si muove l'umanità, che in realtà rappresenta veramente il nostro paese. In questo caso il giornalista Mastroianni della Dolce Vita e il giornalista Gambardella. Qual è il nesso che li lega? C'è un ulteriore archetipo che io citavo nel libro, che è quello di Jacopetti, a cui si ispirava Fellini, cioè il giornalista corsaro, l'intellettuale che si presta anche al gioco dello scandalo di costume, dello scandalismo, che però porta molti, molti frutti. Ricordiamo per il pubblico, Jacopetti era un regista che rappresentava delle schifezze orribili, cannibali, impalamenti, sesso selvaggio, sempre con la scusa di una grande inchiesta giornalistica fatta in paesi selvaggi, lontani, arcaici, che ci faceva vedere la crudezza di quello che era il mondo che noi non conoscevamo, il mondo più infame. Ma prima ancora, in maniera molto cinica, rimontava frammenti della pre-Dolce Vita, della proto-Dolce Vita ancora non canonizzata nel film, romana, andando per esempio a rimontare delle donne e accostando la via di Roma, via delle Zoccolette, cioè schernendo in maniera molto feroce, anche un po' fascistoide. Era l'antitesi del politicamente corretto in assoluto. Totalmente, protervo, bello, sempre in spider, coinvolto anche in torbidi casi di cronaca al limite della cronaca nera. Quindi Fellini era un po' attratto come dal male, dalla protervia, dalla ferocia di Jacopetti, però gli dà il volto invece molle, frusinate, del figlio di mamma sempre redimibile, che è Mastroianni, che appunto è un intellettuale che si sta perdendo nella fatuità, nella leggerezza delle notti romane, però ne sente ancora il dramma. Siamo nel primo dopoguerra, siamo vicini alla penna di Flaiano, che descrive questi personaggi e che racconta il mutamento antropologico che sta vivendo, quindi è ancora un dramma perdere il canone dell'intellettualismo puro, dell'intelletto puro, per scendere nella cronaca rosa e mondana. Ecco, però finora, se vogliamo dare delle radici storiche al disprezzo generale che oggi corre in un luogo in cui tutti possono esprimersi, tutti possono dire il loro parere, è il luogo della totale mancanza di mediazione, perché ognuno si può esprimere, E la figura chiave del disprezzo generalizzato che assume comunque, ma non lo dico per difendermi, la mia è un'osservazione proprio alla Jacopetti, osservo, vedo, mi tengo fuori, non mi interessa. E poi il fatto che sia il giornalista, che è qualcosa che ormai non appartiene più all'attualità, è una sorta di parassita alla società, visto che c'è il social, tutti possono scrivere, tutti sanno la verità, tutti vanno a vedere in realtà cosa c'è dietro la verità, gliela cantano rispetto ai complotti, ai grandi maneggi dei grandi potentati, quindi il giornalista che serve. Questi due esempi che abbiamo portato adesso però non sono esempi negativi, sono esempi levemente decadenti, levemente lontani, sì, in qualche maniera nella sorta di giustizianismo populista tipico della rete, e non si sa perché vengono stipendiati, se in fondo il loro lavoro è questo, fare tardi la notte, andare con le belle donne, frequentare locali, cioè, ma ti ci pagano pure. A me tutti i giorni qualcuno mi scrive: ma ti pagano pure per fare questo? Perché non ci si spiega che possa essere un lavoro. Facciamo un passo avanti, entriamo un po' nell'ambito più macchiettistico. Finora non sono macchiette, sono persone tragiche, maschere tragiche. Entriamo nella macchietta, un giornalista rappresentato proprio nell'aspetto più cialtrone possibile e immaginabile. A quest'ora il Perozzi finisce il suo lavoro di capocronista, esce dal giornale per andare a casa. Ah, il Perozzi sono io. Grazie, dottore. Sono talmente abituato a sentirmi chiamare il Perozzi dai colleghi e soprattutto dagli amici che quasi ho dimenticato che mi chiamo anche Giorgio. Ciao, Perozzi. Ciao. Caffè corretto con Fernet. Branca, eh? Strage di mondane brutalmente assassinate da bande di finocchi armati. Muoiono come le mosche. 4 a Torino, 2 a Firenze, 18 in Lombardia. Panico fra i protettori. Smettila, Perozzino. O che ancora voglio di scherzare a quest'ora? Tolta la licenza, barristi che si scaccolano il naso. Dammi anche 3 pacchetti di sigarette. Qualche citazione storica. Il Perozzi, lavorando in un giornale in epoca tipografica in cui i giornali si facevano a piombo, il giornale praticamente usciva la mattina, il giornalista che seguiva l'ultima ribattuta che componeva il giornale con i caratteri a caldo, a piombo, usciva con la copia sotto braccio all'alba. È quello che fa il Perozzi, quindi non fa una mazza dal punto di vista di una vita sociale, di una famiglia, e il suo gioco e la sua lussura era stagnare dentro il giornale. Esattamente, è una contiguità con gli altri lavoratori della notte, ovvero i baristi notturni, le prostitute che incontra in questo bar dove prende il suo primo caffè all'alba, fornendo il giornale a tutti quanti, anche alle sue amiche prostitute. Alla calda voce di Renzo Montagnani, però la faccia sonnacchiosa di Philippe Noiret. È uno spaccato di quotidianità anche perduta, quello che dicevi tu prima, ma vorrei ricollegarmi anche, è anche uno che fornisce l'idea di essere una persona colta. Tu parlavi di Jeff Gambardella, di Mastroianni. C'era una struttura forte in queste persone, c'era una conoscenza del mondo su cui poggiavano anche lo sguardo sull'attualità, c'era una coscienza profonda, approfondita, non banale. Ti dico anche perché una volta il giornalista gestiva le fonti primarie dell'informazione. Finché non usciva il giornale, mediamente l'utente medio del nostro paese non sapeva cosa fosse successo, delle tragedie di cui abbiamo notizia, dei cambiamenti politici, di tutto quello che può accadere. La vera notizia aveva la sera al telegiornale, nella messa cantata del TG1, nei radiogiornali, ma il giornale si comprava per avere le notizie. E il giornalista che gestiva le agenzie di stampa, gestiva il giro dei questurini, gestiva gli informatori, gestiva... Andava sul posto anche, no? Andava anche sul posto, non il Perozzi, perché era diciamo, imbullonato nella sua poltrona. Comunque aveva una conoscenza della dinamica, quello che sapeva, parlava. Oggi con il fatto che c'è la rete, tutti hanno in mano le fonti, quindi tutti ancora una volta non sentono la necessità della sopravvivenza di questo personaggio. Però non per fare il passatista, ma è un'idea folle, sbagliata, perché comunque l'approfondimento è necessario anche nel 2017 in qualche modo, una conoscenza meno leggera, meno legata a un click, a un byte. Il maneggio generale del il susseguirsi della notizia, gli avvenimenti, e toglie l'idea che sia importante anche la conoscenza della cornice, del contesto, delle dinamiche, avere una memoria storica. Ma la rete non ha una memoria storica, la rete è la confezione dell'immediato, e nel cogliere tutti assieme l'immediato e poter commentare l'immediato, essere tutti editorialisti dell'immediato, è una cosa bella, fa parte della democrazia, però naturalmente lascia a un livello orizzontale ogni livello di conoscenza. Bella e controversa. Io ricordo in questi giorni esplosa come al solito il discorso sul dolore, sull'uso scandalistico anche di Barbara D'Urso, anche osceno se vogliamo, terrificante, del dolore, della demenza di massa. Però io ricordo un reportage sul dolore di Dino Buzzati, strepitoso, parlava di una tragedia di bambini morti in una colonia, un pezzo lunghissimo, struggente, che restituiva un contesto, dava profondità e creava un'empatia, una condivisione del dolore molto diversa, molto più atta a migliorare una società, non ad abbrutirla. Se lo leggeva, chi si leggeva il Corriere della Sera, che andava a leggersi in prima pagina lo spazio editoriale di allora, che era Buzzati, che era un signore educatissimo, che disegnava fumetti, che scriveva libri, una sorta di Kafka italiano, che leggeva da cronista, leggeva la cronaca con la capacità di elaborazione di sogno proprio del sognatore che era lui. Ma Buzzati non c'è più, oggi c'è Twitter. Ci fermiamo un istante, tra poco. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Ormai dovresti sapere che abito qui. Sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Basta provare. La radio è già avanti, non restare indietro. Scopri subito la magia della Digital Radio. Forse è già nella tua auto. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi dab! Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog. Cronache meridiane. Lei è un intellettuale, un borghese come me. Dunque troveremo un accordo. No? Quanto le danno per questi articoli? 5.000 lire, commendatore. No, no, no. Noi non ci potremo mai mettere d'accordo, anche se lei me ne offre 50.000. Io non le offro 50.000 lire. Io le offro 5 milioni. Quanto le danno al mese? Di che? Di stipendio al giornale, intendo. 30.000. E come può vivere con 30.000 lire? Male, commendatore. Io le offro 300.000 lire. Lei come giornalista non può rifiutare, perché io, oltre alle mie industrie, sono proprietario di giornali, riviste, produco dei films. E lei, che è uno scrittore non ancora affermato, solo con me può avere un avvenire brillante e sicuro. È sposato? Non legalmente, convivo. Ha figli? No, per fortuna. Sì, uno in viaggio. Complimenti! Ah, sa che cosa faccio allora? Io le offro 2 ettari di terreno fabbricabile intestati a suo figlio. Oggi il terreno non vale niente, ma tra 10 anni sarà una fortuna e suo figlio sarà ricco. Era l'epoca in cui si diceva films e whiskies. Sì. Ecco, qui cominciamo però a dare delle motivazioni storiche rispetto a un disprezzo generalizzato che è genetico. In questo caso l'Alberto Sordi della vita difficile è a contatto con un vero padrone del vapore e sta perlomeno in un momento di tentazione di essere prezzolato, di avere comunque un capo assoluto che lo muove come una marionetta. Questo è un film cruciale del 61, ma parla appunto del dopoguerra. Certo, è incredibile immaginare Sordi che fa il giornalista, che è stato partigiano, colto, impegnato. Il lavoratore, la testata, vedo dalla foto. È surreale, ma è talmente forte il film, è comunque talmente bravo lui a incarnare qualcosa che lui non era assolutamente, molto più clericale e compagnuccio della parrocchietta, come lui stesso diceva. Però è Sonego, la genialità e la sceneggiatura di Sonego, che quella vita invece l'aveva vissuta. Quindi l'uomo che ha fatto la guerra, colto, che ha un'etica immarcescibile, che è passata attraverso le macerie della guerra, si trova al cospetto di questi barracuda che possiedono ormai tutto, che stanno speculando sulla ricostruzione alla grande. È il lato nero della nostra rinascita, del boom, sì, economico, il palazzinarismo legato al potere politico che si è mangiato l'Italia, ha corrotto l'Italia. Le basi del disastro del nostro paese nascono proprio assieme alle fondamenta solide del nostro benessere. Esatto, nascono tutte lì con questa diversificazione di attività che quindi è tentacolare. Cioè gli offre 10 volte tanto il suo stipendio, sì, più il terreno edificabile per il figlio. È come quei rilanci a poker che ti sdraiano per sempre, no? lo seppellisce, dice. Lui addirittura cerca di rimuovere che ha un figlio in arrivo, quindi per sottrarsi alla necessità, invece lui glielo ricorda, no, tu hai un figlio e quindi devi sottostare a questa... Ti do il terreno edificabile, un domani tu ci costruirai, faremo qualcosa sopra, fai una piccola speculazione, avrai la villettina fatta dal geometra, tuo figlio avrà la casetta, se segue la nostra strada negli anni 80 sarà in galera, ma poi esce, sarà contento, avrà una vita felice e oggi sarà tra le persone che ci ascoltano e segnano i nostri nomi sulla loro agendina. Certo, una brutta licenza, signor Battacchi. C'è solo da augurarsi che l'assassino venga scoperto. Sì. E che il caso di sua sorella non venga archiviato, come purtroppo si è già verificato molte volte in questi ultimi anni. Da parte nostra, se possiamo esserle utili in qualche modo. Ecco, vedi, signor direttore, io mi sono permesso, è vero, di venire qua da lei per vedere, sì, insomma, se è possibile, con tutto quello che io adesso vado a dirci, cercare di vederci un pochino chiaro su questa disgrazia che ha colpito la mia famiglia, tutti, insomma, anche la povera Edith. Si faccia coraggio, mi dica, signor Battacchi. Quando sono andato nell'appartamento della povera Elide, lì al Parioli, dove stava di casa, combinazione, vero, stavo seduto sul divano, e così per caso, nel appoggiare il braccio, mi è andata la mano sotto nell'intrespizio tra il bracciuolo e la tavoletta orizzontale. Scusi, sa, ma io da civile faccio il falegname, loro c'ho un po' di competenza. Ecco, appunto, proprio lì... Nell'interstizio, come dicevo, tra il bracciuolo e la tavoletta. Sì, va bene, ma cosa ha trovato? Ho trovato il diario della povera Elide. Di sua sorella. E c'è scritto qualche... Tutto. C'è scritto tutto qua, quello che faceva. Da quando è venuta a Roma. Tutto, giorno per giorno, c'è scritto tutto qua. Anche i nomi, sa... quanto, insomma, io non lo so. Ecco, qua c'è tutto in questo film. L'infamia della consapevolezza di un fratello che la sorella è fuggita dal paesino per andare a fare la puttana nella capitale. Lo sa benissimo, lo sanno tutti al paese, per loro è una risorsa. Con i soldi che mandava probabilmente hanno avuto modo di sfangare. Ma cosa accade poi? Poi, appunto, l'uomo del popolo, anche qui c'è il popolo che fa ribrezzo come l'alta stampa, come l'alta borghesia, insomma, un ritratto seliniano della società italiana. Tognazzi, appunto, è questo uomo nordico, falegname, ma in divisa. Finto ingenuo, povero soldato. Finto ingenuo, bertoldiano, se vogliamo. Si chiama Batacchi, mettendo dei cognomi infamanti. Sì. Lo chiami Batacchi proprio per un'allusione continua. Come Loris Batacchi, capo ufficio pacchi di Andrea Roncato, di là da venire ancora. Ma invece qui lui vende le prove di questa vita dissoluta della sorella morta. Cioè l'elenco dei clienti praticamente. Sì, sì. La vita, il diario di una prostituta. Lo dà in pasto alla stampa, al miglior offerente, creando anche un'asta fra le varie testate. Quindi c'è un cinismo del mettere se stessi alla gogna, la necessità folle, cioè, tutti morbosa. Tutti gli uomini importanti, politici, prelati che frequentavano, sì, la sorella la vende al giornalista. Ma vendendo anche se stesso, vendendo anche la propria famiglia, vendendo ciò che... Cioè non avendo più il pudore di nulla, se vogliamo, oggi siamo talmente abituati a questa mostruosità, a questo mettersi alla gogna mediatica, un istante dopo il delitto, un istante dopo ciò che accade, l'importante è che tutto venga spettacolarizzato e comunque erano degli episodi dei mostri, quindi sì, parliamo di mostri, capito? Erano chiamati mostri proprio, sì, però erano già la società italiana in germe e quindi quello era tutto profetico, tutto il di là quindi da venire. Tu hai citato poco fa, cioè una certa televisione sembra affondare. Qua c'erano c'era già le scaturigini profonde di quella televisione, visto che parliamo di giornalisti infami, certo, di maniera infame di raccontare, certo, la realtà. aveva capito benissimo che il giornalista avrebbe tratto linfa vitale, avrebbe creato le basi, edificato quello che poi sarebbe un certo tipo di giornalismo che verrà gli anni dopo, che soprattutto alimenterà la televisione. Certo. Dal diario di questa ragazza verrà fuori tutte le storie delle trans legate a Marrazzo, delle oggettine legate a Berlusconi, dei grandi scandali sessuali legati a personaggi noti. Signor Ministro, mi consente alcune domande per conto di TG3. Purché si sbrighi, per favore. Lei è al corrente delle gravi accuse che le sono state mosse riguardo ai fondi sottratti alle mense degli orfani? Si parla di 200 miliardi. Certo, certo che ne sono al corrente. Ecco, e non crede che sarebbe opportuno, in attesa di conoscere la verità, di dare le immediate dimissioni dalla sua alta carica? Giovanotto, dimettermi? Mai. Questa sarebbe una mossa sbagliata. Lei vorrebbe dire che le sue dimissioni sarebbero un implicito riconoscimento delle accuse? Ma no, no, io non mi dimetto per combattere la mia battaglia da una posizione di privilegio. Dal mio posto posso agevolmente controllare l'inchiesta, inquinare le prove, corrompere i testimoni, posso insomma fuorviare il corso della giustizia. Onorevole, ma non è irregolare, dico contro la legge. No, giovanotto, io le leggi le rispetto. E soprattutto la legge del più forte. E siccome in questo momento io sono il più forte, intendo approfittarne, è il mio dovere precipuo. Ma dovere verso chi? Ma verso l'elettorato che mi ha dato il voto per ottenere da me posti, licenze, permessi, appalti. Perché li spalleggi in evasioni fiscali, in amministrazioni di fondi neri, crolli di dighe mal costruite, scandali, ricatti, contrabbando di valuta. Scusi, ma che cacchio sta dicendo? Io sto dicendo che l'elettorato vede in me un prevaricatore. Se invece voleva scegliere un uomo probo, onesto e per bene, ma che dava i voti a me? Addio ragazzo. No, andiamo. Ma tu guarda che figlio della mignotta. Ecco, qua ci troviamo però in un'altra fattispecie. Sarebbe quasi positiva la lettura di questa onestà intellettuale del giornalista rimasto deluso poi da il cinismo pesce canico di questo politico, dice: ma che pensi, se voleva una persona onesta votavano me, sono come me, esattamente come me. Diamo il contesto. Il contesto è il livido 1976, ormai il mutamento antropologico è avvenuto. Pasolini. Beh, il mutamento morto. Anche nel paese, diciamo. Paese, sì, siamo sì. In pieni anni di piombo, inizio anni di piombo, cominciano i morti per le strade, comincia il casino. Quindi in questo film collettivo che vede impegnati Loi, Maccari, Magni, Monicelli e tanti altri, tanti anticampioni del cinema italiano, si immagina questo TG3 ancora di là da venire, un TG3 futuristico che ancora non esisteva all'epoca, condotto da Paolo Fiume, che altri non è che Marcello Mastroianni, appunto, che ha questo candore che ha conservato anche nella maturità rispetto a una realtà violenta che è costretto a era osservare. Era il TG buono, già c'era l'idea, comunque serviva un sì. TG buono. Un TG etico. No? Della parte buona del paese. Capito? Sì, appunto. Quindi l'idea che si potesse anche osservare la realtà e venirne ancora feriti, tra l'altro da un eccesso di sincerità di questo politico che racconta con una radiografia, autoradiografia perfetta e implacabile se stesso, cioè la protervia del potere, la violenza anche clinica. Che è un'autobiografia che non ha storia. È fuori dalla storia, la potresti applicare a qualsiasi epoca del nostro paese, a qualsiasi grande passaggio nella storia della nostra politica. Ma perché riuscirono in quelle epoche a cogliere così profondamente, decisamente, degli elementi eterni nel nostro racconto dell'esistenza del nostro paese? Beh, c'era innanzitutto una preparazione, poi la volontà libera che oggi non c'è più, di osservare la realtà, di mostrarla con i suoi spigoli, con le sue asperità, con le sue violenze, anche con dei didascalismi, con delle partigianerie se si vuole, però c'era tutta la tavolozza completa dei colori e l'arsenale era al completo, quindi si poteva guardare film da ogni tipo di angolazione, osservati da ogni tipo di angolazione. Cioè, tu ti rendi conto, Giuseppe, noi sono qualche anno che raccontiamo l'Italia andando a pescare reliquie nei film che vengono considerati ormai film di genere, film di maniera, film d'amatori, film non più adatti ai giovani, ma in realtà le vere profezie, le vere letture decise, implacabili, spietate del nostro paese, le facevano proprio grandi autori, grandi registi, grandi attori, che oggi sono considerate le macchiette. Ma non che nella realtà di oggi non manchino spunti da raccontare. Fammi un esempio poi di un film altrettanto forte e sincero, prodotto in Italia. Non c'è la voglia, c'è la voglia di appiattirsi sulla televisione, di ottundere ogni spigolo, di ammorbidire, di dommatteizzare qualsiasi cosa, cioè come un anestetico. La dommatteizzazione del paese è stata in realtà la grande vasellina che ha permesso che tutto entrasse nella nostra coscienza senza procurarci apparentemente dolore. Dilatando la coscienza. Poi. Assolutamente. Ma era in dolore però. Passiamo alla prossima solo fra un istante. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi dab. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog. Cronache meridiane. Presentiamo ai nostri lettori, eccetera, eccetera, Adri Astin, promettente giovanissima stellina alla quale non è difficile pronosticare un brillante e sicuro avvenire telecinematografico. La vita è dura. Allora, direttore, tutto a posto? Un momento. Quando uscirà? Giovedì, mi pare, vero, direttore? Adesso è quindicinale. Ah, già. Ecco qua. Il prossimo numero in contropopertina, 10.000. Per le spese di stampa, hai capito? Linotype, rotativa, flano e compagnia bella. Non ce l'hai, Spicci? C'ho solo queste. Si va? Sì, si va. Andiamo, a arrivederla, signora. Arrivederla. Per me come facciamo? Ci rivediamo? Vieni quando vuoi, lo sai, sto sempre qui. Lei sì, ma non vorrei come l'altra volta. Mica scappa. Almeno ma un anticipo. Ma te non c'ho spicchio. Vai, vai, su. Vabbè, io torno, Si è fatto tardi. E noi ce ne andiamo al ristorante. Ti porto dal vaccinario. Sei contenta? Dal vaccinario? Si è spento troppo. Ma si mangia bene. Luise, lo sappiamo tutti e due che tu non hai mai saputo cucinare. Ecco, qua stiamo lambendo una zona veramente schifosa della professione, del mestiere dell'intenderlo addirittura. Che però è quanto mai attuale. Abbiamo nelle orecchie ancora le cronache delle foto rubate, le foto vendute, del ricatto, o perlomeno dell'esaltazione di non personaggi che invece diventano persone di cui si parla semplicemente perché esiste un meccanismo corrotto, a pagamento, surrettizio, che sotto l'etichetta di informazione in realtà fa promozione. Sì, sì, nel mondo dei corona e derivati, però qui siamo a metà degli anni 60, io la conoscevo bene, nei sottoscala della stampa c'è questo scalcinatissimo vecchietto con una macchina da scrivere ancora più scalcinata che cerca di scrivere un testo legato alle foto della povera Sandrelli che è arrivata dalla provincia toscana, finisce nelle mani di vari omacci come il fotografo di questi giornali Cianfanna, cioè Nino Manfredi, che cerca di piazzarla con queste foto, le promette un futuro roseo che ovviamente non ci sarà, e per ottenere da lei favori di vario tipo, sessuali, denaro, il denaro che serve ai due vecchietti per andarsi a fare una mangiata dal vaccinare una volta. Quindi tanto non uscirà mai questo famoso pezzo. Sì, sì, con nomi improbabilmente filoamericani, cioè lancio della star sul mercato attraverso una stampa che in realtà non esiste. Credo dovrebbe pagarsi pure, fra l'altro. Oggi ognuno attraverso i social network cerca di promuoversi, attraverso YouTube, no? Cioè, cerca di fare dei video di sé, quindi finisce ancora comunque nello stesso melmoso oceano di nulla, parcellizzato nel niente. In ecco, però modo. Noi avevo ridato un motivo di disprezzo in più, in realtà, che forse era stato dimenticato o sembrava improbabile un momento in cui per tutti non c'è nulla da pagare per celebrare se stessi, perché sì. Bisogna pagare un vecchietto nel sottoscala per mettere due foto e farle circolare, me le faccio con lo smartphone, sì. E me le metto su Instagram e me le vedono tutti, no? Se volete proprio che evisceriamo e scioriniamo le parti più schifose delle nostre interiora, se volete vedere veramente la putrefazione dei nostri precordi, guardate anche questo, esiste anche questo, esiste la mistificazione di far di una persona una diva facendosi pagare e poi nemmeno facendo uscire le sue foto. Ma tu perché non sei contento? In fondo tutte le cose che volevi da ragazzo le hai avute. Volevi andartene di qua e te ne sei andato. Volevi fare il giornalista e sei diventato un buon giornalista. Se ti sei sposato ci sarà stata una ragione. E queste sono cose che restano, anche se a volte pare di no. Perché non sei contento allora? Perché la nostra stagione è passata. Non ci si oppone alla vita nessuno. Ti viene addosso così. E quando non sai più cosa scegliere o stai al gioco o niente. E ci sono dei momenti. Se vogliamo, esiste anche questa fase del giornalismo. del grande giornalismo o dello pseudo grande giornalismo o dell'autoconsiderazione di essere dei grandi giornalisti. La stagione del riflusso, della macerazione. Il giornalista sempre convinto abbia allignato una piccola redazione provincia, abbia avuto la possibilità di lambire le prime pagine dei grandi giornali, ha una sua epoca maledetta, un'epoca fatta di amori contrastati, di storie dolorosissime, di occasioni perdute, di esperienze brucianti, di essere stato inviato in luoghi pericolosissimi, la cui verità, veridicità è molto soggettiva. In questo caso, quindi, abbiamo una rappresentazione. Sì, questo è Le stagioni del nostro amore di Florestano Mancini. Siamo nel 66, il boom sta già mostrando le corde della propria illusorietà. Quindi un Enrico Maria Salerno, con questa voce meravigliosa, grave, riflessiva, torna nella sua Mantova, che lo generò come Virgilio, torna lì e ritrova un vecchio amore, Annucca Imè, torna da grande giornalista conosciuto in tutta Italia, quindi torna in un paese più piccolo. E sempre... Però torna in provincia con un nome di respiro nazionale, non è poco. In assoluto, e trova questo vecchio amore che lo aveva rifiutato un po' all'epoca, che invece lo riguarda con occhi diversi. Però guarda che infame. Va a recuperare un credito perduto adesso che ha una visibilità. Certo, c'è anche la sincerità della vanità, la squallida vanità maschile, c'è mostrata in tutta la sua sincerità. Questi erano registi che mostravano anche queste corde, questi lati più o meno oscuri, che erano oscurali della personalità. La sua vanità. Meschinità è questa, torna con un potere d'acquisto superiore, certo. Quasi una costrizione. Però poi ha schifo anche di sé, perché è sempre riflessivo, è meditativo, quindi si sospende in questa ritorno sul luogo del delitto e quindi guarda se stesso, guarda il suo passato da uomo della resistenza, cioè l'aver vissuto la guerra, quindi tempi di verità assoluta. E quando si è vissuto un tempo da giovane di verità assoluta, la mistificazione che sta avvenendo viene vissuta sempre con un fiotto di nausea. Sì, c'era questa dilatazione di questa un epica di comunque, in tanti film. Cioè, oggi è incomprensibile, perché oggi non c'è nessun discorso. Ma oggi stanno già morendo ormai di vecchiaia quelli che hanno fatto il 68, certo, fra un po', certo. Non so quale epica ci sarà, aver visto la partita Italia-Germania, non lo so, quale sarà l'ultima epica ancora impugnabile per dimostrare di aver vissuto degnamente. Certo, qualche videogame portato all'estremo, non lo so, qualcosa. Cioè, è proprio difficile vivere tempi di concreta realtà anche per la mia generazione. Io lo dico anche da quasi quarantenne, insomma, cioè è molto complesso toccare con mano e pensare di poter raccontare una realtà, cioè disseppellire tutto dietro la coltre di fuffa. Vabbè, questo è il momento delle epiche individuali, si inventano, si costruiscono. In Instagram è pieno di possibilità perdute o di delizie lambite. Non è più importante se è accaduto davvero, ci sia un suggello storico di un'epoca a cui si è dato un contributo di gloria. Buonasera, signor commissario. No, signora, buonasera. Non sono un commissario, sono un giornalista. Ah, dottor Letta. Sì, sono un giornalista, avrei bisogno di telefonare al mio giornale, posso? Ma lei è il direttore del giornale Il Tempo? Sì. Permette che mi presenti, dottor Bonetti. Buonasera, molto detto. Io l'ho vista in televisione, lei nelle tavole rotonde è sempre il più acuto. Molto gentile, mi dai il suo soprabito? No, guarda che il dottor Letta è venuto solo per fare una telefonata urgente e va via subito. Fai un caffettino al dottor Letta. Ma perché vuole un caffè? Basta, un giornalista non lo rifiuta mai un caffè, signore. Prego, dottor Letta. Diciamo, questo è il cameo. Sì. Gianni Letta, allora notissimo direttore del Tempo, un momento in cui era un giornale centrale, non più come oggi, nella storia del nostro paese, entra rappresentando se stesso in un film. Sì, è straordinario, appunto, c'è questa storia di indagine coniugale fra Sordi e la Vitti, e quindi c'è questo Sordi servilissimo che impone alla moglie di andare a fare un caffè a dottor Letta, e lui, Letta inappuntabile, pettinatissimo, che si siede sul divano di casa e fa una telefonata al giornale. Diciamo, questo l'abbiamo messo come inserimento patafisico, no? Il giornalista in persona che entra e buca la coltre del film, supera, sì, la ma anche pellicola. come fluttuazione comunque della fama di un personaggio. Oggi, certo, se citi Gianni Letta lo citi per la sua avventura politica di grande mediatore, piuttosto dire quando era giornalista. Era cronista al punto tale che, mentre detta il pezzo al giornale, acquisisce informazioni da Monica Vitti sul delitto avvenuto al piano di sopra, qualcosa, sì, del genere. Sì, sì, sì, sì, sì. Incarnava l'archetipo perfetto del giornalista. Giornalista perfetto, sì, acuto, intelligente, che da tutto prende l'esempio, che fa il pezzo sulla cronaca, perché il giornalista per eccellenza parla di cronaca. E Sordi sottolinea che nelle tribune politiche è sempre il migliore, tra l'altro anche lì essendo profetico. Di grande un futuro, profezia. Di un poi, futuro che verrà, insomma. Diventerà probabilmente notevole anche nelle tribune politiche, passando dall'altra parte dello scranno, non di quelli che fanno domande, ma di quelli che a cui le domande rispondono, anzi danno il contesto per fare o per non fare per niente domande. Alla prossima, ciao Sansone. Ciao.